Beh, a maggior ragione il nostro obiettivo è quello di prestare molta attenzione anche a questo ambito che si sta scoprendo e sta avendo un'esplosione di conseguenze di questione molto importante. C'è bene da biologo che dici, vogliamo lavorare, c'è che l'appuntamento al nostro podcast è un saluto a voi, siamo 360 come sempre, grazie per la grandezza per ascoltarci. Le ricerche del tempo sempre fanno parte, già detto, sono stati sul nostro ricordo di aggiungere, se non piace un podcast, di aggiungere, mettere dei like o dei commenti, mi piace per voi questo poco, ma noi ci aiuta a migliorare questa qualità della voce e a sentire più di meglio questi livelli, ormai che è un podcast sempre più grande e speriamo di tutti ci siano due che oggi vi appassionano come appassionano il DNA, dovete immaginare come il tipo di medica se sottotto del DNA all'interno di un uomo raggiunge circa 1,5 metri. Oggi siamo in una location molto particolare, siamo al castello di Brescia, in questo bar all'aperto di un uomo e con in mezzo alla vegetazione, quindi un clima estremamente rilassato. Alla fine della nostra galassia, alla fine della in relazione a un'lezione universitaria che ho seguito lo scorso sabato, abbiamo mandato di microbioma e Viking, di patologie associate all'alterazione del microbioma ha impiegato quasi 30 anni a circa 35.000 chilometri come ricco esperto di questo ambito. Facciamo fare una bella introduzione di cos'è il microbioma. I batteri che noi ospitiamo hanno 10 volte tanto allora questo possiamo dire che se non ci fosse un'idea in termini di misure per i batteri, cosa abbiamo addosso e quanto possono essere importanti per l'organismo, tutte le altre cose possono influenzare le dermide, così come il cavorale, così come il nostro intestino, eccetera eccetera, e sappiamo che sono, che se pesati sono circa 1,5 kg, quindi un organo vero e proprio come il nostro cervello, e se dovesse mancare in un determinato momento per una qualsiasi causa esterna, noi in questo momento non saremo qua a parlare, moriremo direttamente. La nostra vita è garantita dalla proliferazione di questi batteri che continuano in maniera costante ad interagire non solo con il nostro stato di salute, ma anche addirittura con uno scambio genetico continuo e costante. Oggi sappiamo che i batteri possono direttamente i geni batterici in qualche modo possono essere riassorbiti dal nostro organismo per endocitosi e essere riutilizzati in determinati modi. Addirittura esiste, sappiamo bene, che una coppia di scienziati molto famosi, i Rosenberg, ha sviluppato un'ipotesi, che è la teoria dell'olobionte, in cui dice sostanzialmente che noi ci siamo evoluti in funzione dei batteri, cioè con i batteri stessi che hanno evoluto gli organismi che chiamiamo superiori in modo che li potessero portare in giro. Quindi se vendiamo la cosa dal prospetto del batterio, diciamo, probabilmente gli organismi biologici sono i mezzi che a loro sono serviti per propagarsi e diffondersi all'interno del pianeta e all'interno della biosfera, quindi di tutto quello che è il vivente all'interno del nostro pianeta. Quindi sì, sui batteri c'è molto da dire, e tu hai appena fatto una lezione, no? Ne stavamo parlando. Che cosa è venuto fuori da questa lezione? Il punto cardine di tutta la discussione era il fatto che anche nella comunità medica, che è ormai famosa per arrivare sempre dopo, sempre dopo. Il bodybuilding in questo caso è sempre un passo avanti in molti ambiti, anche nella scienza e nella medicina, anche nella comunità medica si tende a considerare il microbioma non più come una flora batterica da reintegrare saltuariamente con probiotici, esatto. O prebiotici, ma come un organo vero e proprio, come tu dicevi, e quindi come un qualche cosa da salvaguardare, da proteggere, da alimentare nella maniera corretta, e che incide profondamente sullo stato di salute o di patologia dell'essere vivente che li contiene. Questo vale infatti anche per gli animali, non per forza, non facciamo gli antropocentrici, no? che mettono l'uomo sempre al centro. E da flora batterica, abbiamo detto, passiamo a un microbioma. Microbioma che chiaramente è correlato, e questo era l'argomento della nostra discussione precedente, correlato a una serie di patologie intestinali, e sembra essere proprio il passaggio di questo microbioma e di alcune specie di questi batteri in maniera anomala dall'intestino nel sangue e poi in determinati organi bersaglio la causa di parecchie patologie che all'apparenza sono completamente scorrelate da questo. Ed è il caso di patologie autoimmuni, piuttosto che problematiche anche relative al glutine. E come funziona sostanzialmente la teoria dell'intestino permeabile, potremmo dire, del leaky gut, questa in gergo scientifico medico? Beh, allora partiamo da un pochino di anatomia dell'intestino, che è in maniera molto molto semplice, poi trovate tutto nei testi di anatomia, anche con disegni e rappresentazioni molto più precise di quello che possiamo fare in un audio, chiaramente. L'intestino è parecchio lungo, siamo circa sui 4 metri, 4 metri e mezzo, e è suddiviso in zone, è in varie aree, dalla zona dello stomaco fino al colon, che è la zona anale, e sostanzialmente questo intestino è rivestito da uno strato di cellule, da un endotelio, e queste cellule chiamate enterociti, queste cellule enterociti sono collegate tra loro in maniera molto stretta da queste giunzioni chiamate appunto giunzioni strette, che sono sostanzialmente dei ponti proteici che mettono in comunicazione le cellule e ne obbligano sostanzialmente l'adesione stretta, un po' come sostanzialmente possiamo considerare un tubo d'acciaio che non fa permeare acqua al suo interno. Sostanzialmente questa dovrebbe essere la fisiologia intestinale. Non spiego il resto perché esulo dal contesto del podcast. Qual è il problema? Che questi complessi proteici, che sono proteine di adesione, possono venire intaccate da vari fattori. Se noi consideriamo l'intestino è quello che separa sostanzialmente l'ambiente, è un ambiente esterno all'interno del corpo, cioè separa tutto quello che arriva dalla bocca, quello che ingeriamo, e lo separa dagli organi interni, dal sangue, e quindi da quello che diventerà poi l'interno del corpo umano. Ha una funzione estremamente importante nel selezionare ciò che deve entrare e ciò che non deve entrare, ed è per questo la giustificazione delle giunzioni. Cioè, se questa cosa però non funziona, sostanzialmente la faccenda si complica, cioè tutta una serie di molecole, tossine, batteri stessi, che non trovano modo di entrare nel sangue normalmente, ma quando l'intestino è lasso questo succede, entrano in maniera anomala e non filtrata all'interno degli organi, e questo chiaramente diventa un grosso problema quando alcune specie batteriche o alcune sostanze entrano in maniera incontrollata nel sangue. La principale evidenza di questo, anche se in passato si sembrava completamente scorrelata dall'argomento, sono le malattie autoimmuni, per esempio l'artrite reumatoide, che proprio alla lezione universitaria di sabato sostanzialmente si è visto come una specie batterica particolare che ha un complesso di riconoscimento immunitario molto molto simile a quello dei condrociti, delle articolazioni delle mani e dei piedi, sembra essere la responsabile di questo, che risulta in maniera anomala nel sangue in questo caso, sia la responsabile principale dello scatenarsi di un'alta immunità appunto su questi condrociti, su queste cellule dell'articolazione. E volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, sei stato molto chiaro. Infatti volevo aggiungere prima di tutto che nell'intestino risiede circa l'80% del nostro sistema immunitario, non a caso infatti, proprio perché, come dicevi giustamente tu, tutto ciò che arriva e viene ingerito tramite gli alimenti che viene ingerito deve essere in qualche modo sterilizzato prima di poter passare dal lume intestinale al torrente sanguigno attraverso la via porta o la succlavia, a seconda che siano proteine, carboidrati o grassi. Quindi prima di tutto, quindi, questo è importante, l'intestino come organo che garantisce la buona funzionalità del sistema immunitario. E aggiungendo a quello che stavi già dicendo tu, pensa per esempio alle proteine, una volta che vengono scomposte dagli enzimi digestivi proteolitici, trypsina e chimotripsina, una volta che vengono scomposti negli aminoacidi costituenti, generalmente vengono assimilati sotto forma di aminoacidi singoli, di peptidi o al massimo tripeptidi. Oltre il tripeptide tendenzialmente non passa. Fare passare degli oligopeptidi, delle strutture che possono avere 7, 8, 9 aminoacidi, può essere estremamente pericoloso, in quanto noi sappiamo per esempio che il nostro sistema immunitario si evolve attraverso la differenziazione tra il sé e il non sé, cioè quando noi, nel momento in cui noi ci sviluppiamo, tutto il nostro sistema immunitario viene calibrato in relazione a quello che è riconosciuto da quello che non è riconosciuto, cioè quello che fa parte del nostro organismo da quello che non fa parte del nostro organismo, e viene questa riconoscimento avviene attraverso delle glicoproteine fondamentalmente che sono poste sulle nostre cellule, sulle membrane cellulari, e sono piccole catene di aminoacidi collegate a delle strutture di zuccheri fondamentalmente immersi, inserite all'interno della membrana cellulare. se la sequenza di aminoacidi che riconosce la cellula epatica piuttosto che una cellula nervosa o qualsiasi altro tipo di cellula che compone il nostro organismo è molto simile alla sequenza di aminoacidi che passa all'interno di un intestino, di un leaky gut, come dicevamo prima, e viene poi riconosciuta nel passare dal nostro sistema immunitario come agente esterno, si forma a questo punto un agente immunitario, e nel momento in cui viene attaccata, chiaramente una volta che viene a formarsi questa nuova proteina, questo andrà a attaccare quelle che sono tutte le strutture simili. In questo caso, se la catena di aminoacidi, quindi l'oligopeptide, era molto simile per esempio all'epatocite, andrà a attaccare poi il fegato piuttosto che altre strutture all'interno del nostro organismo, dando vita a quello che dicevamo prima, cioè alle malattie, quelle che vengono chiamate malattie autoimmuni, cellule pancreatiche per esempio, dell'isola di Langerhans, beta per esempio, quindi il problemi con l'insulina, il diabete di tipo 1, eccetera, eccetera. Quindi sì, quindi per confermare e approfondire quello che stavi dicendo. Infatti c'è un grosso dialogo tra microbioma intestinale e cellule immunitarie dell'intestino. Sappiamo che l'intestino ha una grossa quantità di vasi linfatici in cui le cellule immunitarie sono libere di scorrazzare, e nell'intestino troviamo tutto, linfociti B, linfociti T, macrofagi, cellule dendritiche, e i batteri stessi secernono delle molecole di segnalazione che vengono lette dal sistema immunitario. C'è un dialogo bionivoco, quindi un dialogo molto stretto tra questi due sistemi, e appunto a maggior ragione l'equilibrio, un microbioma sano riflette anche uno stato immunitario sano, e diciamo adesso potremmo pensare a nel podcast quali siano le strategie migliori per mantenere un microbioma sano, o eventualmente riportare un microbioma diciamo in salute. Esatto. E infatti noi sappiamo bene che diversi tipi di alimentazione influiscono positivamente o negativamente sulla ricostituzione di una flora batterica che poteva essere stata alterata da fattori legati, come dicevamo prima, a alti contenuti di singoli micronutrienti o macronutrienti, principalmente macronutrienti. Quindi, per esempio, alimentazioni con alte quote di proteine e basse quote di carboidrati sotto forma di frutta e verdura generalmente sbilanciano il microbioma da una parte rispetto che non altra, tendono a creare uno squilibrio all'interno del microbioma. È tanto vero questo che chi è abituato a questi tipi di alimentazioni, chiamiamole chetogeniche per esempio, quando ritorna a mangiare frutta e verdura molto spesso sperimenta gonfiori di pancia, formazione di aria, quei sintomi che possiamo fare rientrare nelle classiche sindrome intestinali che possono andare dalla colite o a quelle che vengono definite colon irritabile. Quindi come noi andiamo a manipolare gli alimenti incide direttamente su quella che è la qualità del nostro microbioma intestinale. Se io dovessi dare dei consigli, naturalmente un'alimentazione sicuramente molto più ricca di frutta e verdura e bassa in quote proteiche è un'alimentazione che generalmente tende a riequilibrare nel tempo, magari con l'aggiunta di probiotici anche, la nostra fauna batterica, la nostra fauna batterica, e riportarla verso quella che è la normalità. C'è anche altre strategie ausiliarie che possono essere utilizzate, come per esempio l'idrocolon pulizia. Esatto, questa a volte lo consigliamo ai nostri clienti in condizioni di colon irritabile, quello che dicevamo prima, oppure di patologie come l'orticaria. Abbiamo visto che alimentazioni detox a base fondamentalmente di frutta che si usano in preparazione di circa 2 settimane, abbinata a idrocolonterapia da 1 a 3 trattamenti suddivisi in 2 o 3 mesi, fondamentalmente divisi in un primo trattamento, dopo 2 o 3 settimane un secondo e al terzo mese un terzo, e progressivamente un inserimento di proteine nei mesi successivi, di solito sono risolutivi, non solo perché ricostituiscono il microbioma, ma perché puliscono anche l'intestino da tutti quei contaminanti che potevano essersi accumulati nel tempo e che davano luogo poi alla patologia stessa. E poi c'è il digiuno. Il digiuno, che nel bodybuilding tra l'altro è diventato famoso negli ultimi anni, il digiuno intermittente, che sono delle versioni del digiuno dove tra l'altro si utilizza spesso anche la glutamina per mantenere stabile i livelli di aminoacidi, comunque mantenere una condizione positiva in termini di azoto all'interno del nostro organismo, quindi anabolica, anche se in digiuno. Però ecco, noi il digiuno fondamentalmente è stato utilizzato e viene utilizzato, anche noi ogni tanto lo consigliamo, proprio per la risoluzione dei problemi di livello gastrointestinale. le fasi di digiuno, soprattutto dopo i digiuni prolungati fino a 2 o 3 giorni, ma anche semplici digiuno di un giorno, lasciano riposare tutto il sistema gastrointestinale e ne permettono un recupero accelerato. Abbinato ad alimentazione del tipo detox, come dicevamo prima, normalmente nei casi di intestini che non funzionano bene o di colon irritabile, come dicevamo prima, coliti, tendono a essere risolutive nel giro di qualche mese, cioè cambiare completamente la condizione. Sì, assolutamente, basti pensare che il turnover cellulare dell'intestino è molto alto e ogni 3 giorni, sostanzialmente tra i 3 e i 6 giorni, in base anche all'usura che c'è, vengono riportate nuove cellule estremamente funzionanti all'interno del lume intestinale, e quindi abbiamo un vantaggio in questo caso, nel senso che il tempo di recupero dell'intestino, se non gravemente pregiudicato, è molto rapido, e quindi i benefici anche di solo 1 o 2 giorni di digiuno possono essere notevoli da questo punto di vista. Io direi, tanto per capire il perché, voi pensate che lasciare riposare completamente, quindi una giornata di digiuno o più giorni di digiuno, il sistema gastrointestinale contribuisce a liberare tutta una serie di energie, di capacità di ricostruzione del corpo, che normalmente vengono in qualche modo inibite, cioè se il nostro organismo non può fare 2 cose nello stesso tempo, cioè continuare a digerire alimenti che continuiamo a introdurre 5, 6, 7, 8 volte al giorno, quindi una continua digestione che porta a un'incapacità, comunque a una non ottimizzazione dei processi di recupero del sistema gastrointestinale se danneggiato o infiammato, rispetto a una condizione di digiuno in cui fondamentalmente tutte le capacità di ricostruzione e di manutenzione del nostro organismo possono essere dirette sugli organi bersaglio, quindi stomaco, esofago e soprattutto l'intestino, proprio perché non sta transitando nulla e quindi il corpo è in condizione di poter ricostruire ciò che è stato distrutto molto velocemente. È un po' come dover mettere a posto una strada quando le macchine passano, e quindi avere il tempo di chiudere una buca tra il passaggio di una macchina e un'altra, oppure avere la strada chiusa e avere una squadra di operai che possono mettere a posto la buca. È molto veloce il ripristino della strada in queste condizioni rispetto alla prima condizione, e per prima cosa fa questo. La seconda cosa del digiuno, ecco, diciamo che quando il digiuno di un giorno abbiamo questa caratteristica, cioè di poter inviare o reclutare tutte le energie disponibili per la manutenzione di quello che deve essere mantenuto. Quando invece superiamo i 2 o 3 giorni, invece si succedono altre cose. Oltre ad avere questa capacità manutentiva estremamente forte, abbiamo anche inneschiamo alcune vie metaboliche, che sono quelle sirtuinergiche, che vengono detto, delle sirtuine, che sono delle proteine ancestrali fondamentalmente che riscontriamo in tutti gli organismi, compresi i batteri, che sono deputate fondamentalmente alla manutenzione e riparazione del DNA in generale. Quindi non solo abbiamo la possibilità con un giorno di digiuno di accelerare i processi di recupero proprio perché lasciamo riposare gli organi, ma oltre i 3 giorni, naturalmente bisogna essere seguiti in questi casi generalmente da medici o da persone che sono qualificate per farlo, abbiamo la possibilità anche di innescare queste vie metaboliche sirtuinergiche che abbiamo detto, che sono estremamente importanti e vengono considerate fondamentali in tutti i processi di anti-aging, proprio per rallentare i processi di invecchiamento. Quindi è molto interessante il discorso del digiuno. Un'altra curiosità che proprio a lezione è stata fuori l'altro giorno è quella di un alterato microbioma correlato all'obesità, e questo è un altro concetto chiave. Al di là dell'intestino tra virgolette malato che può avere un obeso, chiaramente essendoci dei dismetabolismi molto marcati ci possono essere anche dei problemi legati all'organo proprio intestino, ma esiste anche un batterio che si è visto essere molto molto presente in quantità molto maggiori in persone gravemente obese, che è in grado tra l'altro di convertire a un enzima di membrana, sostanzialmente, che espone all'esterno della membrana e converte delle sostanze che normalmente non assimiliamo, come dei derivati della cellulosa, e riesce a convertirli in zucchero, in glucosio. Questo è per lui chiaramente è funzionale perché ci mangia con quel glucosio. Sono i tipici batteri che troviamo all'interno dei ruminanti generalmente, che hanno questo enzima che viene chiamato beta-glucosidasi. Sì, però c'è negli obesi è molto molto molto molto presente, parliamo addirittura fino al 30% della flora totale, e chiaramente pensiamo per esempio a tutte quelle sostanze come per esempio frutta e verdura. Infatti ci sono obesi che ingrassano con la verdura, con quantitativi di verdura che secondo la teoria classica delle calorie dovrebbe essere qualcosa di assolutamente povero in termini calorici e energetici. Ed inoltre l'altra cosa che è simpatica è il fatto che vanno spesso di moda per esempio queste pasta asciutta a base di queste fibre che sono a zero calorie, nel senso che appunto non hanno, non vengono assimilate teoricamente dall'organismo, in questo caso vengono assimilate. E quindi la situazione dell'obeso è una situazione in qualche modo anomala rispetto alla persona sana, anche dal punto di vista del microbioma, quindi un'altra cosa interessante. Ed un'ultima, credo, considerazione è data dal fatto che nell'intestino c'è il cosiddetto cervello addominale, cioè ci sono il sistema nervoso enterico è un sistema nervoso a sé stante che dialoga in maniera molto, molto stretta con il sistema nervoso centrale, quindi col cervello sostanzialmente. E quindi uno stato intestinale alterato, o in questo caso diciamo uno stato intestinale di salute, si riflette automaticamente anche con un sistema nervoso intestinale in salute, e quindi con un sistema nervoso globale, perché anche chiaramente c'è un riflesso anche a livello centrale, un sistema nervoso che è più efficiente ed è più efficace, e anche con, sembra che cattivi stati di umore talvolta siano dati anche da questi problemi legati all'intestino. Facendo un esempio, chiunque di noi sa bene che quando è molto arrabbiato, molto felice o innamorato, le prime cose che succede è la chiusura dello stomaco, oppure alcuni la chiusura dello stomaco, oppure si riflette sull'intestino con problemi di scarichi intestinali a volte, oppure di difficoltà di digestione. Per cui sappiamo molto bene che tutto il sistema gastrointestinale è legato a quello che è il nostro sistema nervoso centrale. È chiaro che uno può influenzare l'altro e viceversa. Quindi quello che hai detto tu, chiunque lo riscontra normalmente quando è innamorato, quando è arrabbiato, quando ha avuto qualche problema, sapendo bene che si andrà a scaricare o sullo stomaco, sull'intestino a vari livelli. Le famose farfalle nello stomaco. Lorenz, ci siamo dimenticati di dire una cosa importante, che forse avrebbe chiarito ulteriormente quanto sono importanti i batteri, cosa vuol dire, cosa vogliono dire questi batteri all'interno del nostro organismo. Tu sai bene da biologo che il numero di cellule, si stima che il numero di cellule in un organismo vivente in un uomo siano tra i 60.000 e i 100.000 miliardi, dipende dalla grandezza dell'uomo. Le cellule batteriche che fanno parte, che sono sparse sul nostro organismo o all'interno o all'esterno del nostro organismo, si considera che sono circa 10 volte tanto, quindi 100.000 miliardi per 10, un milione di miliardi, quindi rispetto a quelle che sono le cellule che compongono il nostro organismo. Per capire questi numeri, tanto per fare un esempio che sicuramente tutti possono intuitivamente immaginare, voi pensate che ogni cellula contiene il DNA. Il DNA lo dovete immaginare come un filo, come un'elica. Se srotolato il DNA all'interno di un uomo raggiunge circa il metro e mezzo, due. Quindi se dovessimo mettere insieme tutto il DNA di un uomo, di ogni cellula di un uomo, e fare un filo unico, partendo dalla Terra, arriveremmo alla fine della nostra galassia. Alla fine della nostra galassia. Immaginate che per arrivare alla fine della nostra galassia abbiamo mandato la missione, la sonda Viking, se non mi ricordo male era il Viking, ha impiegato quasi 30 anni a circa 35.000 km all'ora per arrivare alla fine della nostra galassia. I batteri hanno 10 volte, i batteri che noi ospitiamo hanno 10 volte tanto questo DNA. E per capire, per avere un'idea in termini di misura di cosa abbiamo addosso e quanto possano essere importanti, quanto in qualche modo possono influenzare le nostre vite questi animaletti, chiamiamoli. Beh, a maggior ragione il nostro invito è quello di prestare molta attenzione anche a questo ambito che si sta scoprendo e sta avendo un'esplosione anche in termini di seguito e di divulgazione molto importante. E che dici? Torniamo a lavorare. Direi che l'appuntamento è al prossimo podcast, e un saluto da Lorenzo. Enrico, come sempre, vi ringrazio per ascoltarci. Il podcast, come sempre, come ho già detto, sta andando molto bene. Vi ricordo di aggiungere, se vi piacciono i podcast, di aggiungere, mettere dei like o dei commenti in iTunes. A voi costa poco, ma a noi ci aiuta a migliorare la qualità del lavoro e a salire di livello nelle classifiche dei podcast di fitness e alimentazione. Vi ringrazio tutti e ci sentiamo al prossimo podcast. Alla prossima. We'll be right back.